Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Il 31 dicembre del 2015 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si rivolgeva agli italiani nel suo primo discorso di fine anno con queste parole. Un elemento che ostacola le prospettive di crescita è rappresentato dall'evasione fiscale. Secondo uno studio recentissimo, di pochi giorni addietro, di Confindustria, nel 2015 l'evasione fiscale contributiva in Italia ammonta a 122 miliardi di euro. 122 miliardi vuol dire 7 punti e mezzo del prodotto interno lordo. Lo stesso studio calcola che anche soltanto dimezzando l'evasione si potrebbero creare oltre 300.000 posti di lavoro. Gli evasori danneggiano la comunità nazionale e danneggiano i cittadini onesti. Le tasse e le imposte sarebbero decisamente più basse se tutti le pagassero. L'evasione fiscale, dunque, male endemico del nostro paese con cui ci troviamo a fare i conti da molti decenni. Questa sera ne parliamo in studio con il professor Vincenzo Visco, che è ex ministro delle Finanze e del Tesoro, che ha scritto un libro pubblicato dall'Università Bocconi Editore dal titolo Colpevoli evasioni, le tasse come questione non solo tecnica. Il professore in studio è con noi. Buonasera e benvenuto, professore. Buonasera. Buonasera. Allora, ascoltiamo insieme prima di tutto questo passaggio tratto dal suo libro. La cosa più sorprendente è che sull'evasione fiscale si sa tutto. A quanto ammonta, chi evade, chi evade di più e chi evade di meno, come si distribuisce sul territorio, quanto gettito viene meno per le principali imposte. Eppure la soluzione del problema viene considerata impossibile, tanto che nessuno se la pone come obiettivo. Gli uomini politici mantengono un atteggiamento elusivo che oscilla tra la negazione del fenomeno e il suo uso propagandistico e strumentale. In presenza di un'evasione di massa come quella italiana, oltre 140 miliardi di euro, più dell'8% del PIL, il 20% delle entrate fiscali e il 30% di quelle tributarie, e che coinvolge milioni di contribuenti, la paura di perdere consensi e voti ha un'influenza evidente nel determinare questo atteggiamento. Inoltre, ammettere l'esistenza di un problema delle dimensioni ricordate, con tutte le conseguenze in termini di ingiustizia e inefficienza economica, appare disdicevole. E allora, professor Visco, ammesso che la questione è politica, come si sarebbe detto un tempo, però insomma nel libro ci sono anche delle proposte specifiche che hanno a che fare anche con la tecnica fiscale. Ecco, ma quali sono queste proposte? Come si può combattere l'evasione? Beh, le proposte sono parecchie, però l'essenza, la proposta diciamo più rilevante è quella di creare un sistema per tutti i contribuenti che sia analogo a quello della ritenuta alla fonte per i lavoratori dipendenti. È chiaro, sì. Tutti i dati ci dicono che quando c'è un terzo che trattiene le tasse per conto dello Stato, l'evasione è impossibile o comunque molto bassa. Per esempio, non c'è nessuna evasione sui redditi da capitale, perché le banche e gli intermediari finanziari, certo, trattengono le somme dovute. C'è pochissima evasione sui redditi da lavoro, dipendente, pensione, perché vengono trattenute dalle fonti. Alla fonte. E quindi, certo, si tratta di inventare un meccanismo analogo, e lì c'è una proposta che utilizza il meccanismo dell'IVA, cioè il meccanismo del pagamento frazionato che c'è per l'imposta del valore aggiunto, per imporre una ritenuta su ogni vendita che viene fatta da parte dell'acquirente di una somma che corrisponde alle imposte che il contribuente che cede dovrebbe pagare. Già, perché lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, l'IVA è l'imposta più evasa, si parla di quasi 40 miliardi l'anno. Sì, ma in questo caso la ritenuta è sulle imposte dirette. Okay. Ci sono anche altre proposte relative all'IVA, ma in questo modo su ogni vendita chi vende subisce una ritenuta pari alle aliquote delle imposte dirette, chi acquista fa la ritenuta, la compensa con quelle che ha subito, per cui non ci sono problemi di liquidità per le imprese, però in questo modo l'evasione diventa impossibile, cioè perché è un obbligo fare la ritenuta, un obbligo contabilizzarla. Se questo non avviene, c'è immediatamente un intervento per cui il contribuente viene messo al ruolo, e così si arriva all'ultimo anello della catena, dove appunto, quindi a livello del consumo, dove si concentrerebbe gran parte del gettito. E per evitare, insomma, ulteriori evasioni, è previsto che chiunque venda al consumatore finale deve fare un bonifico in banca. A quel punto la ritenuta la fa direttamente la banca, e quindi non abbiamo neanche più il problema di dover controllare il commercio al dettaglio, dove oggi si concentra gran parte dell'evasione. In questo modo la questione sarebbe risolta, salvo il fatto che bisogna garantirsi che nelle vendite al dettaglio ci sia un margine dichiarato che non si riduca fino ad azzerarsi. Nel qual caso l'evasione ci sarebbe, però se accade questo, un accertamento automatico in base a quello che lo stesso contribuente faceva prima, o a quello che nel settore è il markup, il margine operativo, quello potrebbe automaticamente essere accertato, e quindi evitiamo ogni problema. Così sostanzialmente il compare la possibilità di evadere. Oh, questo con le nuove tecnologie è molto facile. È molto facile, basta volerlo. Basta volerlo. Ci vuole la volontà politica. E poi bisogna ovviamente riorganizzare l'amministrazione. Sì. C'è un altro aspetto che poi ricorre molto nelle lettere al Sole 24 Ore, ma anche nelle telefonate degli ascoltatori a Radio 24, che riguarda il famoso totem del cosiddetto conflitto di interesse, che nel libro viene circostanziato, cioè si dice attenzione perché da noi non funzionerebbe. Non funziona da nessuna parte quello tradizionale, no? Cioè io pago e poi mi scarico la fattura. Sì. Per il semplice motivo che i due si mettono d'accordo, c'è possibilità di arbitraggio. Però un conflitto di interesse vero è questo della proposta, solo che questo riguarda i redditi di un altro, e l'interesse di chi deve fare la ritenuta è a farla, perché se no ne risponde lui direttamente, è come un datore di lavoro sostanzialmente. Quindi in quel caso, certo, c'è un conflitto tra datore di lavoro e il lavoratore, no? Il datore di lavoro gli sottrae una parte del reddito e la versa allo Stato, e qui si creerebbe un meccanismo analogo. L'altra questione riguarda il peso delle tasse, che pure viene trattato nel libro e molto spesso evocato pure nel dibattito pubblico. Cioè la pressione fiscale nel nostro paese è molto alta, il PIL e l'Istat dice 43%, e molti dicono: ma se non riduciamo le tasse, no, come facciamo? Non si riduce. La questione è vera, in realtà la pressione fiscale per chi paga le tasse è più alta, se arriva a 46-47. Il problema è proprio quello di prendere questa massa di soldi indebitamente evasa e utilizzarla esclusivamente per ridurre le imposte. A questo punto noi avremmo una serie di effetti positivi. Ci sono stime, sia uno studio della Confindustria di un paio d'anni fa che di un economista della Banca d'Italia relativamente recente, che dimostrerebbero che se venisse meno l'evasione ci sarebbe una crescita maggiore del reddito, perché vengono meno una serie di distorsioni economiche, non c'è più concorrenza sleale, e in più poi tutti quelli che avrebbero la riduzione delle tasse consumerebbero di più o investirebbero di più, e così via. Quindi questo è il tema fondamentale, cioè da augurarsi che nella prossima legislatura il prossimo governo lo ponga al centro della sua azione di politica economica. Penso che sia molto improbabile, visto quello che con ogni probabilità uscirà dalle prossime elezioni. Cioè qui ci vuole un governo che sappia le cose, che sia in grado di attuarle, che non abbia paura di impopolarità nel breve periodo. E già, perché lo ricordiamo, se la lotta all'evasione è seria, e lei l'ha fatta sul serio, da quel che ricordo, può costare in termini di consenso politico, c'è poco da fare, però magari poi bisogna guardare nel medio periodo. Ma sì, questo è quello che mi dicevano, diceva tu ci fai perdere voti, perché rispondevo no, io vi faccio guadagnare i voti di tutti quelli che le tasse le pagano e che vedono che altri non le pagano, quindi anche dal punto di vista strettamente politico il bilancio non è detto che penda solo da una parte. Poi c'è tutto il tema che nel libro viene evocato, che è quello più generale dell'economia sommersa, l'economia non osservata, di cui forse l'evasione è parte ma non esaurisce il tema. Assolutamente, comunque noi abbiamo un settore di economia informale, l'economia del sottoscala, quella che viene anche definita nei libri, come queste cose, l'economia del souk, che è tipico di quella tipologia di economie non avanzate, e quella è difficile combattere, forse anche inutile, però noi siamo un grande paese industriale, siamo uno dei paesi più ricchi del mondo, insomma non è quello il punto in Italia. Un'ultima battuta, professor Visco, si parla tanto di incrocio delle banche dati e si dice, ma perché non le facciamo? Anche qui perché non si fanno gli incroci? Questa è una buona domanda. C'è un dato di fatto, quella dei conti finanziari che adesso sono a disposizione del Ministero, però c'è una circolare interna che ne limita l'utilizzazione fino a renderla inutile sostanzialmente. Ed è una scelta politica. Anche qui una scelta politica. Bene, allora grazie ancora al professor Visco, lo ricordiamo. Autore di questo libro, edito da Università Bocconi Editore, Colpevoli Evasioni, le tasse come questione non solo tecnica. Buonasera e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.